Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. Che meraviglia questa mattina parlare di fratelli. Buongiorno, benvenuti da Irene Zerbini. L'augurio di una giornata che ci spinga a riflettere su una cosa. Se avessimo avuto un fratello e una sorella diversi, saremmo delle persone diverse, perché questo dimostrano alcuni studi. Ci fermiamo sempre sul studio della nostra personalità, prendendo in esame quanto abbiano inciso i genitori o l'ambiente. Invece no, attenzione, perché cambia la costellazione familiare e cambiano anche i rapporti tra fratelli consanguini e fratelli invece acquisiti. Tutto questo determina chi siamo. Perché se nel 2014 sono state le separazioni 68.089, i divorzi 34.241, hanno riguardato coppie con figli, quindi figli coinvolti nelle separazioni sono stati circa 120.000. Che significa tutto ciò? Mettiamo insieme le cifre per dire che aumentano convivenze e famiglie allargate, ovviamente, e l'Università del Minnesota, per esempio, ha realizzato una ricerca sul tema dei fratelli che si trovano in comune, un papà, una mamma, o sull'unione tra fratelli adottivi. Cosa succede? Questi sono mille aspetti che vanno al cuore della famiglia del 2016. Saluto, do il benvenuto a uno degli esperti di famiglie che si rompono e che si ricompongono, l'avvocato Gianettore Gassani, presidente dei matrimonialisti italiani. Buongiorno, buongiorno a voi. Che idea si è fatto? Ma l'Italia è cambiata, le famiglie allargate sono una realtà. Se prima era un qualcosa che vedevamo soltanto in televisione, nei film americani, oggi siamo circondati da famiglie allargate, perché c'è stato un aumento esponenziale di separazioni e divorzi, quindi una disgregazione di moltissime famiglie, e quindi gioco forza la nascita di nuove coppie e quindi di nuovi figli. Quindi un nuovo modo di affrontare una famiglia che noi non conoscevamo. Prima. Avvocato, la interrompo un attimo, perché di famiglie allargate si parla anche nella storia che stiamo per proporvi. È una storia eccezionale, oggetto di un libro, tra pochissimo lo si potrà leggere, e dice così il titolo del libro: L'amore non conta i cromosomi, edizione Ponte Gobbo. Ed è la storia di un grandissimo amore tra la protagonista, che oggi è nostra ospite, e il suo fratellino Riccardo. Michelle Giacobbe, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, ciao. Michelle Giacobbe è anche la scrittrice, l'autrice di questo libro. E quanti anni hai, Michelle? 23. Quando hai iniziato a scrivere quello che poi è diventato il contenuto di questo libro, in realtà non intendevi farne uno. Erano dei post su Facebook che sono stati notati da una casa editrice, perché erano post dedicati a Ricky, che era piccolo, indifeso, e tu hai provato questo bisogno di proteggerlo, perché stava questo suo fratello percorrendo forse il più difficile tra tutti i percorsi che un bambino può avere, cioè era in terapia in una pediatria oncologica perché era malato di cancro, ed era tuo fratello con una storia particolare, perché è un fratello che non hai avuto dalla nascita, Michelle. Esatto. Allora, Ricky è stato abbandonato in ospedale appena è nato, praticamente non subito, a fine dell'arco della giornata, quando i medici si sono accorti che aveva la sindrome di Down, e i genitori non se la sono sentita probabilmente e l'hanno lasciato lì. Quindi poi sono stati chiamati dalle assistenti sociali e ci era stato proposto questo nuovo fratellino. Aveva solo 4 mesi quando siamo andati a prenderlo e io avevo 7 anni. E avevi anche, e tra l'altro lo sottolineo, avevo per... Avevo già 4 sorelle, quindi esatto. Eravamo già in 5, esatto. Va detto, per sottolineare la grandezza di tua madre, tra l'altro, che è un'operatrice sanitaria, che senza dubbio sarà stata sensibilizzata anche dal tipo di professione che svolge, ma è la mamma di 5 figli, ha chiesto e ottenuto l'affido di questo bambino abbandonato perché alla nascita hanno constatato i genitori naturali e fosse affetto dalla sindrome di Down. È una grandissima storia di amore tra fratelli quella che stiamo raccontandovi, e continueremo tra qualche minuto. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E vi ricordo la pagina Facebook di Spunti di Vista. Riprendiamo la nostra conversazione. Un bambino abbandonato in ospedale il giorno in cui nasce perché i genitori scoprono che ha la sindrome di Down. E la nostra ospite, Michelle Giacobbe, sorella, che lo vede per la prima volta, lei ha 7 anni. E tu cosa hai pensato, Michelle? Questo bambino non è stato abbandonato per questa ragione, ma per un'altra. Perché era mio, era nostro, quindi è stato abbandonato per quello, lui doveva arrivare da noi, punto. Per me non c'è altra spiegazione. Infatti molti mi dicono, ma sai, i genitori sono stati cattivi, non dovevano farlo, hanno fatto un brutto gesto. Per me hanno fatto un gesto bellissimo, perché l'hanno donato a me, quindi io non ho niente assolutamente contro di loro, anzi. E quindi tu sei stata... Sono proprio persi una cosa meravigliosa come lui e ci hanno perso loro, insomma. Mi fai veramente venire i brividi ogni volta che parli, perché sei una ragazza eccezionale. Hai 22 anni e quando hai cominciato a vivere con Ricky ne avevi 7. Esatto. Questo tuo libro, questa tua storia, questa tua testimonianza, attraverso la malattia, tra l'altro, quindi un percorso terribile, quello della chemioterapia, chi ci è passato lo sa. Sì. Ha dimostrato che è possibile perfino la grandezza e perfino la felicità durante un percorso così. E se voi guardate le foto sul profilo Facebook di Michelle Giacobbe, di lei e Ricky, voi non potete dubitare in nessun istante che quel bambino sia felice a dismisura ogni giorno di più. È certezza proprio che trasmettono le tue testimonianze. Questo fratello in realtà non aveva i tuoi cromosomi, non aveva il tuo corredo genetico, perché veniva da un'altra famiglia. Esatto. L'hai amato in maniera diversa rispetto alle altre 4 sorelle di sangue, tra virgolette? Sì, io lo dico da sempre, è una domanda che praticamente mi fanno tutti, mi chiedono in continuazione se c'è stata differenza, se ho sentito magari sei più distacco perché le altre hanno il mio sangue. In realtà sì, ho sentito il distacco, ma non perché lui non fosse mio fratello o non lo sentivo mio, ma proprio il contrario, perché io l'ho poi più che altro cresciuto come un figlio, quindi io l'ho amato ancora di più rispetto a loro. E quando tu dovevi conciliare, mentre lui era in ospedale, il tuo lavoro, i tuoi impegni e il seguirlo poi in vista di un ennesimo trapianto che prevede l'isolamento, che prevede un percorso ancora più esclusivo, perché chi assiste i pazienti in isolamento poi non può uscire, non può avere il cambio. Tu a un certo punto ti sei preso, e questa esperienza abbastanza significativa, una sorta di settimana di pausa. E come ha reagito Ricky? Ah, Ricky era abbattutissimo, ha fatto una settimana che è stato in ospedale con mio papà e mia mamma, perché poi giustamente loro non l'avrebbero più visto, e quindi abbiamo fatto questa prova di distacco, insomma, tra me e lui, durata una settimana. Beh, per me è stato terribile, perché continuavo a chiamarlo, comunque ci mandavamo video, ci scambiavamo video, però era sempre molto abbattuto e si pensava fossero comunque le chemioterapie tosse della preparazione al trapianto che fosse giù per questo motivo. E invece mi ricordo ancora il giorno che mi ha chiamato mia madre, mi ha detto: guarda, ho anticipato il trapianto di un giorno, devi venire prima perché vi mettono in isolamento oggi. E come sono entrata in camera che gli ho urlato ciao Pugulin, come facevo di solito con la mia voce fuori dal normale, no? Perché quando sentivo lui facevo proprio le mie vocine sceme. Come mi ha visto, si è alzato sul letto, ha fatto un sorriso mega galattico e non aveva più niente. Quindi ha fatto una sceneggiata di una settimana perché io non c'ero. Quindi c'è sempre stato questo legame molto molto molto forte tra me e lui. Tu hai scritto poi tutto quello che questo comporta, come sia impossibile per te guardare i cartoni animati, come sia impossibile pensare a quei giorni senza rimpiangerli, e ne è uscito questo libro. Scrivere, mettere fuori le tue emozioni in qualche modo, ti ha aiutato, l'hai fatto per mandare un messaggio? Cos'è che vuoi che venga colto da questa esperienza vostra, tua e di tuo fratello adottivo? Sicuramente, innanzitutto vorrei che il primo messaggio che passasse è di essere grati alla vita, perché la gente molte volte sottovaluta il dono che abbiamo di vivere, perché per assurdo, forse se non passi in mezzo a queste situazioni non ti rendi conto che c'è anche questo, purtroppo ci sono anche queste realtà. noi l'abbiamo sempre presa in maniera abbastanza spensierata, comunque l'abbiamo sempre vissuta come un gioco, anche perché lui, nonostante i suoi 15 anni, è sempre stato un bambino più piccolo, e quindi abbiamo sempre cercato di lasciarlo un po', non so, adesso non mi viene neanche bene il termine, nella sua innocenza, ecco, abbiamo sempre cercato di lasciarlo nella sua innocenza e di non fargli capire comunque tutto quello che poteva esserci attorno. Non volevamo fargli vivere la paura di morire, perché a quell'età non è umana a 40 anni, 50 anni, 70 anni, figuriamoci a 15. E l'altro messaggio che deve passare assolutamente è l'amore per un fratello, cioè penso che non ci sia niente di più bello e niente di più forte, perché si parla sempre comunque dell'amore tra madre e figlio, che è una cosa naturale ed è una cosa penso normale, però tra fratelli non lo so, io lo vedo come una cosa di più. Michelle, grazie, e ricordiamo il titolo del libro, L'amore non conta i cromosomi, e grazie per essere riuscita con questa efficacia a raccontare un'esperienza di dolore estremo. La stessa madre ha detto: prendersi cura di un figlio ammalato per una mamma è normale, ma per una ragazza come è stata mia figlia lo è di meno, cioè ciò che lei ha fatto è stato straordinario. Torniamo alla domanda iniziale: se non avessimo avuto i fratelli o le sorelle, o se ne avessimo avuto di diversi rispetto a quelli che abbiamo, saremmo state persone diverse? E quanto sì, incide? Senza ombra di dubbio. Sì, lo dico, lo continuo a dirlo, lo ripeterò in eterno, che lui a me ha cambiato totalmente la vita, ha cambiato il mio modo di essere, mi ha cambiato come persona, e io sinceramente oggi amo la persona che sono diventata, ma questa cosa la devo a lui e solo a lui, quindi è una cosa che per me è assolutamente guai se non ci fosse stato. E tornassi indietro, nonostante le notti passate a non dormire, nonostante comunque la paura di perderlo, la sofferenza, le lacrime e tutto quello che ho dovuto passare, comunque io ho rinunciato a tantissime cose per stare vicino a lui, perché comunque aveva la sindrome di Down, che io sinceramente non la notavo così tanto. Certo, che trovi addirittura irrilevante in questo percorso. Per me era irrilevante, sinceramente, però comunque era sempre un po' limitato, non poteva stare da solo, quindi mi sono dedicata anima e corpo completamente a lui, e tornassi indietro assolutamente lo rifarei non altri milioni di volte, ma qualcosa di più. Ci sono delle storie bellissime che vi racconteremo anche nel corso di questa trasmissione sul fatto che proprio l'amore tra fratelli non sia una questione di corredo cromosomico, diciamo così, corredo genetico. Me lo conferma, avvocato? Assolutamente sì, perché ci sono a volte le famiglie allargate e composte da figli dell'uno e chi dell'altro, e a volte sono figli anche in comune. Spesso si rischia che questo figlio diventi il Buddha della casa e gli altri siano dei comprimari. Bisogna stare molto attenti. A lei ha osservato questo, e quindi cosa succede? Si fanno delle differenze con gli altri? Sì, a volte capita che si fanno delle differenze, a volte uno dei due genitori insorgono anche i figli, e si creano delle situazioni molto difficili. Ovviamente, lo ribadisco, ci sono casi tantissimi in cui queste dinamiche negative non ci sono, per cui queste famiglie rappresentano addirittura un esempio. Spesso questi fratelli, che non bisogna chiamare fratellarsi, si amano la follia e si proteggono moltissimo. Ora i nuclei familiari, come lei ci ha spiegato, cambiano, e questo richiede spesso anche molta maturità da parte degli adulti coinvolti, e a volte invece a dimostrarne maggiore di maturità sono proprio i ragazzi. A volte i genitori imparano dalla relazione che i figli, cioè fratelli tra loro, riescono a instaurare. Quando ci sono famiglie allargate con bambini piccoli che crescono insieme, nati da unioni diverse, è più facile creare una vera e propria fratellanza, perché si cresce insieme. Cosa diversa quando a 17, 18, 16 anni devi entrare in una famiglia già formata con altri ragazzi nati da altre unioni, beh, lì la cosa è molto più complicata. Quindi se non c'è una maturità e una cultura di fondo da parte dei genitori, i problemi ci sono, perché inevitabilmente si è indulgenti verso i propri figli e si è assolutamente severi nei confronti dei figli dell'altro, inevitabilmente quando non c'è una maturità. Quando si è intelligenti si riesce ad amare tutti indistintamente. Per esempio, io conosco casi in cui un padre, chiamiamolo così, putativo, emozionale, di cuore, non ha fatto mancare niente a quel ragazzo che era il figlio della compagna, per esempio. Sì, ce ne sono numerosi. Addirittura gli ha fatto testamento, abbiamo avuto un caso ultimo, un testamento molto importante. cuore. Chiaro. E quindi al di là di quello che può fare la legge, poi esiste anche la volontà delle persone, esiste anche la maturità, l'affetto delle persone. Se uno vuole può aiutare anche il figlio della propria compagna o della propria moglie, se si è arrivati al matrimonio, in tutto e per tutto senza limitazioni. Per cui credo che, ecco perché non bisogna mai chiudere le porte in faccia chiaramente della società e delle famiglie allargate, proprio perché anche nella cultura di tutti i giorni dobbiamo capire che l'amore non è un fatto di genetico, ma è un fatto morale. Questo. Grazie mille all'avvocato Gianetto Regassani. Grazie a voi. E continuiamo a parlare di fratellanza, perché fratelli si nasce o si diventa? È una delle domande che ci siamo posti anche osservando la demografia. Non esistono nemmeno i termini adatti per definire i quasi fratelli, va bene così? Ma per rispondere ad alcuni di questi interrogativi noi abbiamo scomodato un cultore della materia, si chiama Chiara Corte Rappis. Dottoressa, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Chiara Corte Rappis ha delle specialità molto interessanti, anche molto attuali, perché studia quello che è lo spazio della cooperazione dal punto di vista della pedagogia culturale. È una dottoressa, è un'insegnante della Bicocca. Ho segnalato alcune delle sue competenze, ma vorrei proprio sentire che consigli ha da dare per migliorare la qualità della vita, per migliorare la felicità di tante famiglie che a volte si perdono in un bicchiere d'acqua. Ecco, allora, innanzitutto vorrei proprio dire che i fratelli e le sorelle sono i primi soggetti con cui un bambino o una bambina entrano in un rapporto simmetrico, cioè in un rapporto paritario. Il rapporto tra fratelli e sorelle ha delle funzioni molto importanti e che andranno a costruire e a influenzare i rapporti che costruiremo durante tutto l'arco dell'esistenza. Ci si concentra molto sull'aspetto del rapporto fra gli adulti e si parla molto poco del rapporto fra l'essere fratelli. In particolare io ho notato nel mio lavoro in studio, nel mio spazio, che l'essere fratelli di sangue o l'essere fratelli acquisiti ha ben poca distinzione o differenziazione, cioè nel senso che dipende molto da come viene gestito dai genitori questo rapporto fra fratelli, piuttosto che dal fatto di essere biologicamente fratelli o meno. Un'affermazione molto importante, dunque, tra fratelli acquisiti e fratelli consanguini c'è la stessa possibilità di riuscita del rapporto. La interrompo, riprendiamo tra poco. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. La complessità di rapporti tra fratelli acquisiti e fratelli consanguinei nelle famiglie ricomposte. Stiamo affrontando questo tema oggi a Spunti di vista. Buongiorno da Irene Zerbini. L'obiettivo a volte di una relazione tra fratelli inconsciamente diventa in qualche modo quello di proteggersi, di sostenersi nell'accettare la nuova relazione. E questo è segno di maturità, abbiamo detto. Invece, a volte i genitori cadono nella trappola di giudicare male i figli o il figlio dell'altro o dell'altra. È vero, dottoressa Corte Rappis? Sì, certo, in questi approcci bisogna avere molta delicatezza, molta comprensione, cercare con i figli dell'altro, del partner con cui comincio una convivenza, comincio una relazione, ad avere molta attesa e pazienza e soprattutto a non interferire, a non giudicare, perché comunque hanno vissuto con delle regole diverse da quelle che sono le regole con cui ho vissuto io. È una delle complessità all'inizio, proprio nelle famiglie ricostituite o ricomposte. Era meglio quando queste famiglie ricostituite non erano la regola? Era meglio quando si completava il proprio ciclo sotto lo stesso tetto e con la stessa coppia genitoriale? O potrebbe anche essere una ricchezza? Come va interpretato? Sicuramente potrebbe essere una ricchezza. Addirittura tante volte il fatto di trovarsi in una famiglia ricostituita o ricomposta può sbloccare certi tipi di rapporti problematici. Porta un'apertura mentale a volte e si capiscono certe proprie schizofrenie o psicosi. Dottoressa Chiara Corterapis, grazie. Grazie a voi. Abbiamo detto che un osservatorio particolare sui legami tra fratelli è quello dell'adozione, però noi ci siamo chiesti un'altra cosa oggi. Cioè, che succede se l'adozione porta a dividere dei fratelli? E questo accade in moltissime nazioni, con moltissimi organismi che sono poi dominati naturalmente da diverse scuole di pensiero, di assistenti sociali, però convergono tutti su un punto, che bisogna rompere i legami col passato. E invece c'è chi sostiene che bisogna rimediare a quello che è il dolore dato dalla separazione, per esempio, di fratelli biologici che finiscono in famiglie adottive diverse. Nonostante il consiglio dei professionisti del settore sia spesso, l'abbiamo detto, quello di ignorare i precedenti legami, noi oggi vogliamo parlare con una famiglia italiana che invece ha agito proprio in direzione opposta. Buongiorno, benvenuta Laura Vallicelli. Buongiorno, grazie per il suo tempo. Buongiorno. E lei è la mamma di due bambini, abbiamo anticipato brevemente il tema. Da quanto tempo sono con lei? Sono con me da circa 5 anni e sono stati adottati quando avevano rispettivamente 4 e 6 anni. Un fratello e una sorella. È un'esperienza, immagino, molto coinvolgente, totalizzante. Certo non abbiamo l'ambizione di descriverla qui per radio. Non sarebbe possibile, troppo poco tempo. Però un giorno siete venuti a sapere, in un secondo tempo, che questi vostri figli avevano una sorella, hanno una sorella. Una sorella più grande. E questo è stato uno shock, ovviamente, non tanto perché noi non lo sapessimo già, quanto perché effettivamente pensare di avere così a portata di mano quello che noi sapevamo, ma in questo momento diciamo che non era un pensiero principale quello di pensare ai fratelli, quanto piuttosto di farci la nostra nuova famiglia con questi due fratelli adottati. E allora è andata che sono stata contattata dai genitori adottivi della terza sorella, che mi ha detto, sono stata contattata io dal papà, che mi ha detto: guarda, noi siamo i genitori adottivi della terza sorella dei tuoi figli e vorremmo conoscerci perché nostra figlia manifesta questo fortissimo desiderio di vedere i propri fratelli, ma soprattutto di sapere che stanno bene. E questo la dice lunga sul legame che esiste tra fratelli. E chiaramente questo deve essere stato una bomba nella vostra vita. Assolutamente. Intanto io prima non ci volevo neanche credere, perché un po' di sospetto c'è sempre. Invece no, era tutto vero. E quindi adesso il tempo è poco, però abbiamo preparato questo incontro perché, nonostante tutti dicessero che non andasse preparato, perché insomma il legame con i nostri due figli adottivi è stato difficile all'inizio, perché loro sono stati adottati quando avevano 4 e 6 anni, quindi con i ricordi, con una famiglia già formata, quindi non era assolutamente facile. Però il pensiero che ci fosse una terza sorella relativamente vicina per noi era fondamentale, nel senso che abbiamo ritenuto che era importante che questo incontro prima o poi ci fosse, che ovviamente l'abbiamo preparato, l'abbiamo studiato. Vi siete visti di nascosto voi genitori? Noi sì, prima ci siamo conosciuti, abbiamo scambiato le nostre esperienze è stato anche utile, perché poi i ricordi dei bambini sono sempre diversi e quindi il confronto con gli altri genitori ci ha dato modo di verificare cose che noi non sapevamo e viceversa. E sicuramente la terza sorella aveva questa malinconia, questo pensiero continuo di non sapere che fine avessero fatto i loro fratelli. Essere terribile. Sì. Adesso questa bambina, immagino ragazza ora, è rasserenata per la vostra scelta. Lei è contentissima, i nostri figli sono contenti anche loro ovviamente, però l'incontro è stato difficile, però è stato fondamentale, è stato molto importante. Perché loro comunque, cioè il legame di sangue non si spezza, non c'è niente da fare. Nella storia dell'adozione ovviamente la famiglia è una famiglia di cuore, una famiglia allargata, però c'è qualcosa dentro che rimane sempre. E quindi questo vuoto che si deve colmare è molto molto difficile. Quindi farli incontrare, anche se è stato doloroso, perché a parte il giorno in cui si sono incontrati effettivamente, che è stato fantastico, meraviglioso, poi, non so, io ricordo che la mia figlia più grandicella mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto, perché viviamo in due città differenti. Perché tra l'altro c'è questo problema che è stato a centinaia di chilometri di distanza. Eh sì, siamo distanti e quindi gli incontri sono programmati, sono negli eventi più particolari, più importanti, però non possono frequentarsi come se fossimo nella stessa città. Tra l'altro loro, quando lo Stato ha deciso di darli in adozione, sono stati divisi subito, tutti e tre sono stati divisi. E poi qui noi... ci vorrebbe una puntata intera anche per sindacare o comunque indagare quelli che sono i meccanismi con cui si stabiliscono queste cose, perché lo dicevamo in apertura, non avviene solo in Italia, anche all'estero, spesso anche nei paesi più avanzati, più attenti a quello che poi sarà il benessere dei bambini dati in adozione, chissà perché questo aspetto invece viene sempre in qualche modo passato in secondo piano, l'ha notato? Lei tra l'altro è un avvocato specializzata in diritto di famiglia, immagino si sia occupata anche di casi che non sono il suo personale. Certo, perché poi ovviamente questo influisce un po' anche nell'aspetto lavorativo. A me piace essere molto attenta a questa problematica della famiglia, dei figli, che coinvolge soprattutto loro, che sono a volte le voci inascoltate di una famiglia, mentre sono fondamentali, perché le scelte a volte dei genitori influiscono certamente, ma a volte i genitori non si rendono conto di quanto possono influire sui figli. E questo noi cerchiamo sempre di essere molto attenti, noi come categoria di famiglie, di avvocati che si occupano di famiglie, cerchiamo sempre di essere molto attenti, molto più attenti. Però a volte non ci si rende conto veramente di quanto un bambino, un ragazzino veda il mondo con altri occhi e interpreti, il rischio è che interpreti male determinate situazioni, quindi è fondamentale, a mio parere la verità in assoluto è importante. E lei, tra l'altro, pur essendo una professionista del settore, diciamo così, è andata contro il parere di altri professionisti che le dicevano, questo è spesso dichiarato nella letteratura, si deve creare un nucleo familiare preciso, vanno recisi i legami col passato. Immagino che lei e suo marito, non so poi se avete allargato la vostra riflessione anche con altri parenti, abbiate passato dei momenti in cui vi siete interrogati prima di capire in quale direzione andare. Assolutamente sì, perché poi i miei figli erano, soprattutto la femmina, era abbastanza malinconica, perché insomma questo passato loro c'è, esiste, non si può far finta che non esista, e quindi decidere di incontrare un altro pezzo della loro storia, che, come dire, nel momento in cui rimane all'interno della nostra famiglia lo posso controllare, ma nel momento in cui è rispetto a un'altra famiglia non è più controllabile, quindi la paura è enorme anche per noi. Chiaro, avete fatto un percorso che comportava tanti rischi, però avete scelto di mettere il benessere dei bambini che avete adottato prima del vostro. Sì. E dunque, avvocato, ma soprattutto mamma Laura, grazie per il suo tempo e per questa conversazione. Ci fermiamo un istante, andiamo a controllare la situazione del traffico e poi tocca a noi. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E concludiamo questo nostro viaggio nel concetto di fratellanza, che molti pensavano nel 2016, se tradotto in termini geopolitici, si sarebbe declinato così: fratellanza uguale Europa. Diciamo che quella certezza si è un po' incrinata a qualche breccia, qualche problema di questi tempi, ma senza dubbio, quando si pensa alla fratellanza, molti, non tutti, non c'è mai l'unanimità in queste cose, ma moltissimi pensano alla Grecia. E per questo vogliamo ringraziare oggi per essersi offerto nostro ospite, un grandissimo giornalista greco, Teodoro Andreadis Singelakis. Carlos Asvrica, ben trovati. Grazie. E lavora per Radio TV Alfa e lavora per l'agenzia greca ANA, l'abbiamo visto diverse volte in moltissime corrispondenze televisive, dunque lì abbiamo avuto modo di vederti anche di persona. Io, certo, tu ti aspetti, ti faccio una domanda sulla Grecia di oggi, ma voglio partire da molto molto prima, perché ci interessano i fratelli e c'è un mito commovente nella vostra mitologia che ha come oggetto dei gemelli particolari, definiamoli così. Sì, so che ti riferisci al mito di Castore e Polluce, dei figli di Zeus. Potremmo dire, per essere molto veloci, ma per cercare insomma di dare il senso di questo mito, che raccoglie ed esprime il senso della fratellanza e della vicinanza di anima e corpo, diciamo così. Vissero poco prima della guerra di Troia e parteciparono a tantissime spedizioni, la più famosa fu quella degli Argonauti per il vello d'oro. E Castore era... Aspetta, prima di arrivare al ferimento, sì, va detto qualcosa. Va detto qualcosa che li accomuna alla situazione delle famiglie allargate, in cui spesso si è fratelli, ma il corredo genetico è in comune a metà. Perché è un po' complesso da spiegare, ma Zeus si era preso una delle solite cotte, cioè voi avevate questo dio abbastanza facile all'innamoramento per questa moglie di Tindaro, il re di Sparta, sì, esatto. E quindi si unisce a lei e quindi si unisce all'Eda e quindi uno era appunto Castore, figlio di Zeus e l'Eda. E invece Polluce era figlio di mortali, perché era figlio di Tindaro, appunto, del re di Sparta, e di Leda lì. Perché lei si avrebbe avuto questo rapporto multiplo, diciamo, con l'amante e con il marito legittimo. E col marito, esattamente, esattamente. E da questo rapporto sono state deposte due uova che contenevano due coppie gemellari. Un'altra molto famosa c'era dentro queste uova, Elena. Sì, esatto, esatto, esatto. Di cui conosciamo, diciamo, come dire, le capacità di creare situazioni abbastanza tormentate. Una covata importante, diciamo. Una covata molte battaglie. Una covata molte battaglie. Ma L'elemento principale è che da una parte il DNA metà in comune, e dall'altra parte però io credo, non credo solo il DNA, ma anche la comunanza di formazione e di valori, perché questo poi il mito ci comunica, e rendono le persone quasi o senza il quasi inseparabili. Senza dubbio. E succede questo, che in ognuna di queste uova i due gemelli erano uno, diciamo così, immortale, in quanto figlio di padre divino, e l'altro mortalissimo. Come e questo tutti noi. Come noi. E quindi ci fu una battaglia. E in quella battaglia Polluce fu protetto da Zeus e quindi non venne ucciso. Invece Castore fu ucciso, e a quel punto si dovrebbe arrivare il momento della separazione. Ma l'immortale Polluce dice: se devo separarmi da mio fratello, io rinuncio all'immortalità. E accetta le condizioni poste da Zeus: per metà tempo staranno nell'Olimpo, per metà tempo negli inferi. Non ha un'esitazione, non chiede 3 giorni per pensarci, decide immediatamente di rinunciare a questa condizione di grandissimo privilegio pur di rivedere in vita il fratello. Non c'è nessun mito così attuale da descrivere quello che è l'amore che si instaura tra fratelli, tra sorelle, quando in Italia ormai centinaia di migliaia di minori si trovano a vivere, lo dicevamo prima, lo dicono le statistiche, in questa condizione delle famiglie allargate, e i genitori si chiedono: ma andranno d'accordo i miei figli con i figli, con le figlie del compagno? E questo mito dimostra la grandezza di questo legame. Posso capire, perché tra l'altro i miei genitori sono separati, mio padre è risposato, ho una sorellastra, però insomma sorellastra non è bello da dire, non rende l'idea. Allora ti domando, Teodoro, anche in Grecia, Teodoro Andreadis, scusa, so che ci tieni al tuo nome completo, anche in Grecia l'espressione è analoga, ci puoi dire nella lingua greca come si dice, proprio facci sentire il suono, e come lo tradurresti? Ma eterofalisa delfos o adelfi, e comunque l'idea che rende è sorella o fratello da madre diversa o da padre diverso, e non c'è questa accezione negativa di sorellastra o fratellastro. Credo sia una questione da riconsiderare, visto che in Italia i linguisti e non solo si occupano, si dice ministra o ministro, insomma direttora o direttrice o direttore, forse anche da riconsiderare questa espressione qui. Spero si possa andare ancora più avanti e spero, visto che parlavamo di Europa, che questa comunanza d'animo possa far ripartire anche il nostro continente, perché non è né un'utopia né retorica. Se non si trovano dei forti punti in comune è inutile stare insieme. E la Grecia ha imparato una lezione molto amara l'anno scorso. Quelli che stanno imparando forse una lezione tardiva sono il resto degli europei. Sì, la Grecia ha avuto una lezione molto amara, tra l'altro ahimè verso la Grecia c'è stato un atteggiamento molto più duro rispetto a quello che abbiamo visto con la Brexit. Se quest'anno, mi domando molto amaramente e ironicamente, se la storia della Grecia ci fosse stata quest'anno e non l'anno scorso, ci sarebbe stata la stessa rigidità che abbiamo visto 12 mesi fa? Non lo so. Quindi però ormai è acqua passata, io spero che si possa rivedere anche alcune condizioni applicate in modo troppo duro alla Grecia, perché sennò l'Unione Europea è veramente a rischio disintegrazione, e penso che ci si dovrebbe ispirare al senso di amicizia che c'è in Grecia, e quindi c'è da ispirarsi alla Grecia, che potrà aver avuto problemi economici ma ha dei valori saldi. Lo si è visto anche nelle immagini che arrivavano dai domeni, è stato un momento di forte comunione tra i popoli nonostante le difficoltà oggettive dell'economia greca. Cioè, è chiaro, si viveva in condizioni terribili, però la volontà di migliaia di volontari, persone che si avvicendavano nei campi per aiutare in qualunque modo, è stato anche quello un momento molto eloquente sullo spirito dei greci. Isole, nelle stesse isole, chiaro, a Lesbo, non volevo dimenticarle. E anche appunto rispetto ai domeni, zone molto vicine ai domeni, malgrado le difficoltà di questo campo, ci sono state coppie di anziani, anche in modeste condizioni, che hanno aperto la loro casa dando da mangiare, facendo lavare, facendo dormire i profughi. Quindi insomma questo è stato un bel esempio, molto forte. I razzisti non hanno attecchito, malgrado siano arrivate centinaia di migliaia di profughi, e questa Europa, se vuole trovare occasioni per i giovani, lavoro, coesione sociale, deve farsi dei valori reali come l'ospitalità, l'amicizia, la solidarietà, che negli ultimi anni hanno latitato e che non hanno dato una prospettiva a tutti noi. Soprattutto se si vuole avere un approccio semplicemente pragmatico, non nemmeno umanistico, ideologico, non hanno funzionato. E quindi a questo punto molto molto va ripensato. E ci piace terminare questa puntata sulla fratellanza con te, che sei greco, in particolare sei un osservatore della realtà italiana e la racconti ai greci tramite i microfoni di Radio TV Alfa e tramite l'agenzia greca ANA. Grazie per il tuo tempo e salutaci per favore in greco. Σας ευχαριστώ εγώ και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Vi ringrazio io e buona prosecuzione o rimanenza che sia di quest'estate. E ricordiamoci che nessuno appunto ci costringe a stare insieme, è una scelta, quindi facciamo dal meglio. A Carmelo Lauricella in regia, ci congediamo perché nessuno davvero ci costringe più a stare insieme, anche se ci vogliamo bene, ma siamo arrivati alla fine della trasmissione. Un grazie. Grazie a Silvi Boccaletti e da Irene Zerbini l'augurio di una splendida giornata.